Bene, siamo in presenza del vicepresidente della società cooperativa Colosseum e abbiamo appena partecipato a una conferenza stampa e vogliamo sapere quelli che possono essere i risultati, le speranze e soprattutto le aspettative future, anche se temporali ma a breve termine, per questa società, la continuazione di questa attività che per noi è fondamentale, per noi disabili, perché anch'io sono disabile. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'intervista e ringrazio soprattutto chi avrà il piacere di ascoltare la testimonianza. Allora, le aspettative e le speranze. La speranza è quella di al 31 di luglio di vedersi rinnovati in proroga e quindi di poter andare avanti a garantire il servizio, che vorrà dire che Via del Dos non chiude, perché quello che stiamo cercando di fare è mantenere attenzionato e quindi riflettori accesi per evitare che Via del Dos venga chiusa, perché il giorno che Via del Dos chiude, ahimè, questa struttura non verrà più riaperta. Quindi l'istanza, la richiesta che noi rivolgiamo al sindaco è quella di incontrarci, di metterci seduti, di fare in modo che insieme possiamo valutare i rischi in maniera molto ponderata, chiaramente, e i benefici che la struttura garantisce, al fine di poter addivenire a questa proroga tecnica, perché poi alla fine di questo parliamo di una proroga tecnica che consenta all'amministrazione di poter esperire la nuova gara e dopodiché andare finalmente a gara e fare in modo che il mercato possa determinare chi sarà il futuro gestore. Noi non chiediamo null'altro, vogliamo solo far sì che Via del Dos non chiuda. Ancora oggi il TAR, con questa istanza ex articolo 61 che abbiamo rivolto, il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato dandoci ragione, ritenendo che una chiusura imminente, repentina, che ci è stata comminata dalla dirigente dei servizi sociali per il pericolo di crollo della vasca piccola, è stato, come dire, annullato, o meglio è stato superato dalla decisione del presidente del tribunale, che ritiene che i calcoli che nel 2020 sono stati fatti dall'ingegnere incaricato da parte di Colosseum delle opere di puntellamento che sono seguite e manutengono la pavimentazione, mantengono la struttura in maniera corretta e quindi questo ipotetico imminente pericolo di crollo a tutti gli effetti non c'è. E quindi il presidente del TAR dà ragione a Colosseum. Noi siamo qui nuovamente per chiedere al sindaco di riceverci per poter dialogare e trovare un punto di sintesi di questa situazione. Via del Dos ha delle peculiarità che non esistono in altre strutture. Via del Dos è un'offerta qualificata sul territorio, la cittadinanza ha bisogno di questa struttura. Per favore, sindaco, ponga attenzione, la giusta attenzione, valuti. Noi non abbiamo interesse ad andare avanti a carte bollate, non abbiamo interesse a sollevare nuovamente altre opposizioni nei confronti degli organi amministrativi, vogliamo solo trovare una soluzione condivisa, ma che stia bene a tutti e che non interrompa il servizio. Un'altra cosa, perché so che avevate fatto anche un ricorso all'ANAC, però l'ANAC si è espressa in modo favorevole per una proroga. Quali sono le ultime novità? Allora sì, è vero, noi lo scorso anno abbiamo, a marzo di quest'anno abbiamo fatto ricorso all'ANAC per via della gara il bando d'evidenza pubblica per la concessione in gestione degli impianti di Via del Dos. L'ANAC si è pronunciata in maniera molto chiara e in estrema sintesi l'ANAC ha detto che è il PEF, quindi il piano economico finanziario, che non consente agli operatori di poter produrre delle offerte perché ha dei criteri il PEF che è stato imbastito dall'amministrazione a dei criteri illogici. E quindi l'ANAC, censurando l'amministrazione, suggerisce di rielaborare nuovamente il PEF e di rimetterlo a gara. Non si è pronunciata, pur avendo a disposizione delle memorie di parte sia di Colisseum che del Comune, non si è pronunciata censurando l'amministrazione per le 8 proroghe che sono state fatte negli anni addietro, non si è pronunciata censurando l'amministrazione per i lavori che ci sono da fare, quindi anche per le opere di puntellamento, ha prestato attenzione solo esclusivamente sul piano economico-finanziario, cioè in buona sostanza ha detto che rifacendo correttamente il piano economico-finanziario e ovviamente attenzionando poi e tutte le cose che sono state segnalate, si può andare nuovamente a gara. È quello che noi chiediamo e siamo qui ancora una volta per chiedere al sindaco, mettiamoci seduti e cerchiamo una soluzione. Questo è auspicabile anche perché dal punto di vista umano e sociale si crea un forte disagio per questioni meramente burocratiche. Adesso non entro nel merito perché non è mia competenza, ma il disagio del persone problematiche con disabilità e bisognose delle cure e assistenza di questa cooperativa è sempre in aumento, è sempre molto più grave, e quindi auspichiamo che si raggiunga al più presto un tavolo delle trattative e si concluda al più presto entro questo mese. Noi ce lo auguriamo e speriamo davvero che questa cosa possa avvenire. Lavoriamo per questo e rimaniamo in attesa. Grazie mille. Bene, siamo in presenza del presidente della società cooperativa Colisseum, che è il signor Gabriele Romanò. Io vorrei mettere il titolo a questa intervista come appello al nostro sindaco neoletto rapinese per intervenire con cortese sollecitudine, visto il disagio che si è creato nella collettività dei disabili della zona, e sono parecchi per vari motivi con varie patologie, e risolvere la questione che è in atto. Cominciamo a chiedere, però, a differenza di interviste precedenti, non l'aspetto burocratico o l'aspetto amministrativo o legale, ma l'aspetto umano. Cioè io vorrei ribadire molto l'aspetto umano, l'aspetto di assistenza ai disabili, il fatto che la zona non è servita se non da questo centro, e un'eventuale disastrosa chiusura creerebbe un disagio enorme a tutta l'utenza, a tutti i pazienti. Quindi vorrei che il nostro presidente mi riferisca su quelle che sono le possibilità di poter intervenire sul suo lavoro, cioè come passione del suo lavoro, come attività svolta in ben 27 anni, e quindi diciamo le sue impressioni soprattutto dal punto di vista umano. Ovviamente la domanda, essendo come dire meno tecnica, è un po' più, richiede una risposta un po' più complessa. Allora, sicuramente la prima cosa che viene da dire è che, al di là dei numeri, no? La prima osservazione che io farei al sindaco eletto è che quando parliamo di piano A, piano B, potrebbe esserci il C, il D, stiamo parlando di persone che non sono semplicemente un numero dei gruppi, delle categorie, sono delle persone per noi, che hanno un nome, un cognome, hanno una storia, hanno con noi una condivisione di un vissuto, nei quali noi abbiamo cercato di dare, ma abbiamo sicuramente ricevuto. L'esempio, diciamo, di quello che sto dicendo lo si può trovare in un progetto sviluppato lo scorso anno che si chiamava Storie. Storie di persone che ci frequentano, ci hanno frequentato, che hanno raccontato la loro esperienza e che sono stati per noi motivo di spunto per essere resilienti in un momento storico molto difficile, quello del Covid e post-Covid. Quindi si parla di relazioni dove c'è un interscambio, noi siamo qua sicuramente per cercare con le nostre competenze di dare aiuto, ma riceviamo molto dalle persone. Questo vuol dire intessere delle relazioni e quindi non fermarsi semplicemente al discorso utente professionista, utente operatore, utente terapista, qualcosa che lega e che sicuramente ha un valore molto importante anche in relazione a come la società si sta sviluppando, dove tutto viene spersonalizzato, dove i punti, i centri di aggregazione non ci sono più. Ecco, noi pensiamo che questo sia un valore aggiunto nel lavoro che facciamo, che quindi non ci fermiamo a fare i fisioterapisti. Per carità, ci sono fisioterapisti bravi in tantissime strutture, in tutte le strutture presenti sul territorio, anche loro vivranno questa situazione, ma per noi questo è quello che vale. Cioè, per noi, per le relazioni che intessiamo con le persone che frequentano, quindi con l'utenza, per noi questo ha valore. E lo altrettanto per i nostri utenti. Questo prescinde dai numeri, prescinde dalle categorie, ed è una cosa che purtroppo non si può sostituire spostando semplicemente fisicamente le persone da un'altra parte. È una relazione che si interrompe e credo che ognuno di noi abbia provato dispiacere nell'interruzione forzata di una qualsiasi relazione con un'altra persona. Ecco, questo mi sento di dirlo in prima battuta. L'altra è sicuramente il fatto che dentro la struttura in cui lavoriamo ci sono una trentina di operatori, tutti vivono la condizione che vivo io, e cioè il fatto di aver scelto questa professione dove si opera sul campo con degli individui, con delle persone, anche per passione. Quindi non solo per esercitare una professione, ma perché questa professione ha i contenuti di una vocazione, altrimenti non lo si farebbe a lungo, perché porta con sé un grosso carico emotivo, dove bisogna lavorare ad esempio per evitare il burnout, dove bisogna costantemente confrontarsi, dove bisogna costantemente trovare le energie da dare a persone che ne chiedono. Questa cosa qui, sciolto il gruppo di lavoro che opera all'interno di Via del DOS, non so se si possa ricreare allo stesso modo per gli operatori che ci lavorano. Non credo che in altre strutture che hanno una vocazione di tipo diverso, il nostro personale possa trovare un'allocazione con la stessa soddisfazione, con la stessa possibilità di dare agli altri con la stessa intensità e con la stessa passione. C'è da dire che anche la struttura, di solito le strutture ci sono, ma lavorano a secco, quindi in palestra. Il fatto di avere qui a disposizione delle terapie in acqua fa del Colosseum una punta di diamante, nel senso che è una delle pochissime strutture in grado di offrire entrambe le cure, e in particolare in molte patologie la fisioidrochinesi terapia, quindi la terapia in acqua è assolutamente prioritaria. Sì, questo lo confermo Michele, perché la struttura, anche se datata, è stata realizzata con lungimiranza. Quindi chi a suo tempo, la struttura mi sembra che sia entrata in funzione nel 1978, quindi stiamo parlando di parecchi anni, di decenni, era già stata concepita comunque proprio per l'accoglienza di soggetti che avessero delle disabilità, e rimane tutt'oggi attuale. Rimane a tutt'oggi attuale per tutta una serie di caratteristiche architettoniche che difficilmente in altre strutture si possono trovare. In più, essendoci un'alta affluenza di persone con disabilità, sia Coliseum che i gruppi che afferiscono hanno trovato nel tempo tutta una serie di strategie, di adattamenti che hanno consentito di personalizzare molto i percorsi che si fanno qui dentro e che difficilmente, penso, possano essere improvvisamente sostituiti. Bene, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto siamo sicuri che l'amministrazione, quindi il comune, interverrà per il meglio, per l'avvantaggio, eliminando il disagio della collettività meno fortunata, perché poi fra l'altro in questa struttura non è che è limitata a una o diverse patologie, loro sono in grado di lavorare su qualsiasi tipo di patologia che si presenti, che possa essere un ictus, un'emorragia, un incidente, un intervento. Questa varietà di interventi la rendono una struttura assolutamente indispensabile nel territorio. Sì, confermo anche questo. Mi chiede ovviamente il poter avere a disposizione sia l'ambiente terrestre che l'ambiente acquatico per poter intervenire rende la struttura unica. L'attività in acqua è sicuramente insostituibile in alcune situazioni dove è necessario un intervento precoce, dove è necessario un lavoro in carico parziale o addirittura in galleggiamento, quindi in totale scarico della forza di gravità. Questo consente anche a chi ha difficoltà nel recuperare in percorsi o in progetti riabilitativi in ambiente terrestre di poter avere dei vantaggi e quindi dei miglioramenti, a volte anche molto rapidi, utilizzando la vasca, utilizzando la piscina. Bene, speriamo che tutto vada per il meglio. Mi sembra che ormai c'è qualche cosa ancora da aggiungere o possiamo chiudere l'intervista. No, direi che si potrebbe stare a parlare per ore dell'attività. Sì, in effetti l'argomento è molto delicato, molto importante. Diciamo che però, per motivi di sintesi, dobbiamo essere incisivi, perché fare un discorso troppo prolisso potrebbe poi essere forse dispersivo. Sì, infatti, come dire, termino qui, diciamo, le mie osservazioni. Colgo l'occasione per ribadire nuovamente all'amministrazione la possibilità di avere una interlocuzione, un confronto che possa far uscire da questa impasse in cui noi stiamo continuando ad operare, ma all'oscuro di quello che sarà il destino della struttura e nostro. Anche perché non c'è una certezza, cioè è tutto aleatorio, è tutto lasciato in sospeso, e questo comporta una grave difficoltà nell'attività, perché non sapendo qual è la prospettiva fra uno, due o tre mesi, lascia veramente sconcertati. Bene, io direi di chiudere e ringraziare il nostro presidente e fargli i nostri migliori auguri per uno svolgimento di un'attività proficua e lunga. Grazie. Io ringrazio tutti e soprattutto quelli che con pazienza vorranno ascoltare fino in fondo l'intervista che mi hai fatto. Grazie Michele.